La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari, in tempo di guerra, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. L'articolo 103 riguarda le magistrature speciali, perché è sì vero che la funzione giurisdizionale è esercitata in maniera neutra e oggettiva da giudici della funzione ordinaria, articolo 102, è vero che è vietata l'istituzione di giudici speciali, ma tuttavia le giurisdizioni speciali preesistenti continuano ad operare e l'articolo 103 le disciplina. Sono essenzialmente tre: la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e la giurisdizione militare. Sono giudici speciali che seguono questi particolari settori e li definisce chiaramente lo stesso articolo 103, perché il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa, quindi soprattutto i tribunali amministrativi regionali, i TAR, hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione. La Corte dei Conti invece ha giurisdizione sulla contabilità pubblica e i tribunali militari hanno giurisdizione per i reati commessi da appartenenti alle forze armate. Quindi tre settori specifici dove occorrono dei giudici specializzati che sappiano valutare approfonditamente i temi in questione. La giurisdizione amministrativa è quella forse più comune per i cittadini, perché i cittadini possono ricorrere per tutelare diritti e interessi legittimi anche contro la pubblica amministrazione. Che cosa significa interesse legittimo? L'interesse legittimo è la particolare posizione che il cittadino ha rispetto all'azione amministrativa, che è specificamente il diritto a che l'amministrazione agisca in maniera legittima. Facciamo un esempio chiarissimo. Partecipazione ad un concorso. Potrò fare ricorso ai giudici della giustizia amministrativa quando dopo un concorso non sarò risultato vincitore, ma la giustizia amministrativa non dovrà dare a me il posto, farmi vincere il concorso, dovrà semplicemente rivalutare l'azione dell'amministrazione ed eventualmente, se emergerà che il concorso non è stato regolare, non è stato in applicazione della legge, dovrà annullarlo. Ecco la posizione di interesse legittimo, l'interesse del cittadino rispetto alla legittimità dell'azione amministrativa. La Corte dei Conti invece controlla la contabilità pubblica, quindi controllerà i bilanci e controllerà quello che si chiama il danno erariale, cioè il danno alle casse dello Stato commesso da pubblici funzionari, mentre è più ovvio il ruolo dei tribunali militari che quello di valutare i comportamenti dei militari in servizio.